5i. Ascolta e trasforma. Vieni qui, per favore. Venite qui, per favore. Vieni a trovarmi. Venite a trovarmi. Fai attenzione. Fate attenzione. Fai silenzio. Fate silenzio.